E fra queste c'erano delle cose interessanti, erano delle vecchie geloso, eccole qui, potete vederle. E ci sono registrazioni della canzonetta addirittura degli anni 50. Quindi adesso vi do un assaggio di questi nastri, canzonetta di tanti anni fa. Sono state per questo riversati con un registratore, un Revox. E siccome il formato era incompatibile, per cui l'abbiamo riversato in digitale sul computer. A tutti, buona visione. Compri un po' di panteggi di lana, non ci posso mica andare a chiedere le palanghe col piattino, eh? E facci con la tasca, che ti devo dire? Viareggio canzona, signori. Musica sempre la solita, parole tante, ma conclusioni poche. Muoviti, o Viareggio. Nomi da mettimi. Oh, perché? Ma uno è bellino, e se la Viareggio, no? E se fossi nata a Pisa? Pisanella. E se fossi nata... Guarda, meno che a Perugia ti sarebbero stati tutti bene. Ormai da tempo è stanco il Viareggino di risentir la solita canzone. La vita è dura e un po' basta una mano sola, un ce la fa girare. Che ci vuoi fare se Viareggio non è più quella che senza gas cucinava a carbonella della sorella. Ormai si è vista tramontare la canzona dalle speranze perdute. Al vostro cuore, signori. Se ce l'ha bella la fortuna? Se ce l'avessi la terema per me, caro signore. Fatto per ragionare, si capisce, no? Oh, papà. Che vuoi? Ho freddo. Quando è stato freddo di gennaio a Viareggio? Guarda, c'è pieno così di forestieri a far bagno. E non ci scioglie il sapone, se no ce lo farebbero anche i viareggini. Viareggio a canzona. Una bugia, sta zitta, se no mi levino la patente. Oh papà! E poi? Oh fame! La povera, ma le frotto tutte! Vuol dire che è come l'indigestione, guarda! E poi gli artisti mangiano sempre dopo il teatro! Ma questo io non mica al teatro! È davvero! La vita è tutto un palcoscenico! Tragedia comica in tre atti con Pare Roberto che chiude il sipario a fondo. E ora non è un repertorio di canzoni. Un repertorio di canzoni, signora? Ma siamo fortissimi noi. Guardi, dalla Befana viene di notte a volare e l'abbiamo tutte. Allora mi dia l'etera. L'etera? È una vostra contentà. Ma se si piglia la briga l'andante alta mattina alla vecchia casa del Paccio, basta che si aggrappi al muro, signora, Redra, Erba Lupina e Gramigna ce la cantate in mezzo. Ma non ci sei mai diventato ricco? Ricco? E come ci potevo diventare se non so neanche le leggi e le scrive? E pensa che mi sarebbe bastato farmi nome e cognome. E che sarebbe successo? Avrei firmato delle cambiali. È un mestiere anche il meglio di tutti e si fatica anche poco. Uno che conosco io di Viareggio, con una damigiana di inchiostro e 3 chili di carta ci si è fatto 6 palazzi. Ne chiam bella ticire, tra cambiali e falsi scec, oggi solo si va su. C'è chi vantacca l'onestà, chi na tanti e chi un ce n'ha, e chi ormai un li piglia più. Guarda che popò di cicca, oh! C'è da fumarci un mese, pigliela! Ho vergogna! Pigliela! Dove il lavoro ci voglio vedere pulito io! Pigliela te! Piglio io! Ma chi è meglio? Io, Zinoni, che aveva messo perfino la tariffa all'elemosina. Sei meglio te. E allora, non si chinava lui, mi devo chinare io. Pigliela. Io la piglio. Non ci vuole più stare con te. Come sarebbe? Ritorno da mia madre, ecco. E quando sarei mai interessata tua madre di te? E che ti disse l'ultima volta? Tanto è vero che mi chiamo Luca, ti viareggio una volta sul sapere. Ehi! Allora, vieni via, ho sgrendinata, vieni via. Sei anche un capello. Dove va andare? Da tua madre. Per intostare la pleurite. Vieni lì. Vieni, Topino, vieni. Moro per te, vivo per te, vita da vita mia. Lascia per te, se in passato t'ha promesso e non ti ha dato, torna con me, con me. Vieni, Topino, vieni, vieni. Oh, papà. Scusami, Addio. Ti vuoi bene lo stesso? Tu, fidella, non capisci che ti voglio tanto bene. Non ti accorgi che il mio cuore tutto intero t'appartiene. Ora basta per favore, che mi arrabbierò, e se perdo la pazienza ti sculascerò. Senza te, via reginella, sai che vivere non so. Oh papà, ti do un pochino io, vero? Due mesi d'estate, tutta roba da bagari, 10 giorni di carnevale e poi il tempo fa il putere, neanche quelli. Il resto, guarda, è in pensieri e ci ali da una scena all'altra. Ma la colpa non è mica tua, vero? E di chi è? Di Arreggio Canzona. La colpa fu, da me me le dio e da me me ne intendo. Ma se tu diventassi ricco? E per prima volta, guarda, il mare che hai nell'occhio ti dovrebbe vedere. Dove la fronte lì che sembra una passeggiata, ci poterei che 4 grifetti lendinosi che c'è. E poi ti farei tutto un bel vestito, bello, tutto a fiori, difesa, come intendo io. Da tutti i buchi lontani del mondo ti dovrebbero venire a trovare. Per te? E per me cosa vuoi? Io sono la malantia, vivo di poesie e di stupidate. Per me, guarda, una matonelletta di mola così mi basterebbe. Soltanto? Me basta solamente un utensilio e cuore. Me basta solamente un utensilio e te. Ma vorria una promessa d'amore, non va dillo a te cuso per me, un utensilio e cuore, un utensilio e te. Basta d'accordo, signori. Saprete per cortesia indicarmi un negozio di dischi? Ma che se ne fa, signore, su un negozio di dischi? Ce l'abbiamo tutti noi. Allora mi dia Giorgio del Lago Maggiore. Mi dispiace, c'è rimasto un bel pentitore del lago, se ti contento di questo. Villa triste? Villa triste no. Tristezza tanta, ma mille poveri. Se sta contenta della vittoria. Parole sulla sabbia ce l'ha. E come ce ne scrive? Mangia, mangia, al mare è arrivato un passeggiata. È nato un tango, ce l'ha. Sì, e che nome l'ha messo a tango? Ho un sassolino nella scala. E io l'ho piena di chiarelle, eppure un milanese. Camminando sotto la pioggia per la villa? Mi si seccherebbero le consiglie perché Chiaverelli c'è da cantare quasi tutti i giorni. Il vento non sa leggere. Guardi, qui quando picchia di tramontana legge, scrive e fa le moltiplicazioni a memoria. La via rosa? La via rosa non c'è né rosa, né gialla, né marrone, né verde. Mi dite come ce l'avete? L'abbiamo nell'arena, ve lo dico io, guardi. Non credo.